Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Amici carissimi, buonasera. Vi salutano calorosamente Gesi e Antonio. Eccoci qua, Antonio. Per un'altra tornata. Ormai maggio è quasi finito, il mese delle rose, degli amori, di tutto un po', insomma, anche se in questo mese ha piovuto parecchio, vero? Insomma, ci accontentiamo. Va bene, a te la parola. E allora diamo un cordiale saluto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto in questa nuova avventura sulle ali dei ricordi. Il nostro indirizzo internet è bluradioveneto.it e ricordiamo la possibilità di ascolto in streaming relativo download della trasmissione, senza dimenticare un cordiale saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Ciao cari. Allora, stasera abbiamo un ospite in studio e abbiamo niente po' di meno che l'ex sindaco di Breda di Piave, il signor Alfonso Beninato, maestro elementare nella scuola primaria di Breda. Buonasera. Buonasera. Bentornato. Grazie a voi di avermi rinnovato l'invito. Alfonso ha scritto tanti libri, ha scritto tante cose ed è anche in consiglio presso l'Unione Italiana Ciechi di Treviso da diversi anni, vero Alfonso? Certo, una collaborazione che nasce fin da quando ero giovanissimo. Sì, appunto, che sei stato impiegato lì. Certo. Comunque adesso ci ascoltiamo la prima canzone e poi ti diamo subito la parola. Benissimo. Allora, Christoph canta Estate senza te. Castelli di sabbia che sbatto giù su questa spiaggia dove eri tu. L'estate è giunta ma senza te, il sole brucia ma non per me. La barca sta legata al molo, io le darò la libertà alla deriva. Castelli in aria, caduti giù, mi resta solo la fantasia. Disegno un viso, sei sempre tu, arriva un'onda, ti porta via. Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola al nostro Alfonso che ci dirà stasera con che cosa ci intratterrà. Allora, il libro di questa sera di cui vi parlo è intitolato La prima vittoria sul Piave dopo Caporetto. È un libro che è di attualità perché adesso quest'anno qui incominciano le diverse celebrazioni del centenario della Grande Guerra e mi sembrava opportuno parlare di questo, presentarvi questo libro. Sì, sì, certo. Intanto, ecco, questo è scritto a quattro mani. Ah. È scritto da me e da un mio ex alunno che molto probabilmente si è appassionato alla storia, a me questo fa piacere perché certo. La mia materia è la storia. Bellissimo. E quindi abbiamo approfondito una pagina che era sconosciuta, una pagina del 1917 che viene vissuta nel Medio Piave. Allora, noi generalmente conosciamo le linee generali della storia, conosciamo i grandi eventi della Grande Guerra, però ecco, questi grandi eventi sono preparati e sono composti anche da questi piccoli eventi locali che molto spesso noi non conosciamo. Qui di che cosa si tratta? Si tratta in assoluto di una prima vittoria, la prima in assoluto, nel 1917, cioè alla fine del 1917, cioè dopo la rotta di Caporetto, sì. Che non è una cosa di poco conto, è una cosa importantissima perché l'esercito è in rotta, c'è un disarmo generale, c'è grande malcontento e le truppe si stanno arretrando in modo molto rapido da quella che era la zona, l'area del Tagliamento e si sta arretrando verso il Piave e c'è la preoccupazione che questa via non debba arretrarsi addirittura verso Adige e Po. Questa quindi prima vittoria avviene nel Medio Piave in una località Molino Sega, e località che è conosciuta oggi molto più del passato grazie proprio a questo libro qui che ha fatto conoscere sia qui in Italia sia all'estero questo grande evento. Si tratta di una battaglia durata due giorni, il 16 e il 17 novembre, però di grande importanza perché lì erano riusciti a sfondare e poi nel giro di appunto 48 ore gli austro-ungarici sono stati ricacciati sull'altra sponda. Ecco, se lì non ci fosse stato questo evento, probabilmente qualche cosa nella storia sarebbe cambiato. Esatto. E il titolo del libro? Il titolo del libro è La prima vittoria sul Piave dopo Caporetto. Ho capito. Proprio questo. E il senso, dicevo, è vero che nella storia noi dobbiamo ragionare sui fatti, però è anche vero che era questo una località strategica sia per il nostro esercito e sia per l'esercito austro-ungarico, perché nei piani dell'esercito austro-ungarico c'era proprio l'idea di sfondare su quest'area tra Salettuol e Zenson di Piave, e questo era un guado che secondo gli austriaci sarebbe stato piuttosto facile, primo perché c'era l'esercito italiano ancora impreparato e secondo perché era una delle aree con un isolotto a metà che avrebbe potuto fungere da apripista, diciamo, sì. Più facilitato. Sì, sì. Avanzato, ecco. Esatto. L'originalità di questo libro qual è? È quella che io ho cercato di mettere intanto a un suo rigore scientifico, nel senso che abbiamo ricercato documenti inediti, e documenti della Terza Armata, documenti dei reggimenti che erano impegnati su quell'area lì, presso lo Stato Maggiore, quindi documenti di parte italiana. Poi siamo andati a vedere un documento inedito della versione austriaca di questa battaglia e poi un documento molto interessante, del quale poi sentiremo qualche brano, scritto da un francese che era giunto per vedere come si svolgevano gli eventi, come era organizzato l'esercito italiano, e lui è arrivato proprio nei giorni di questa battaglia e ha descritto in alcune pagine veramente poetiche quello che stava succedendo lì in quell'area. E lui scriveva per l'Illustration, una rivista francese che nel periodo della guerra si è trasformato proprio in giornale nel quale venivano riportati gli eventi bellici. È molto interessante, io l'ho tradotto, dal francese sì. direttamente sì. Ed è veramente interessante, insomma. Bene. E il brano? Allora, io direi, partirei con una lettura che ci presenta il Molino della Sega. Qual era questa, che cos'era questa località? Perché questa la guerra segnerà proprio una frattura tra quello che era prima e quello che sarebbe stato dopo questa località. Il Molino della Sega era sito a cavallo di un torrentello che partiva dal Piave, molto vicino perciò al greto del fiume, ad un chilometro dalle grave di Papadopoli. Il molino era destinato a segare i legni che discendevano composti in zattere dai boschi della sorgente del Piave sopra San Stefano del Cadore, Monte Peralba. Venivano segati qui e al di là di Salgareda in forma di tavole per la costruzione delle case di queste zone. Il molino si trovava sul confine fra Fagarè e Saletto, cioè fra il comune di San Biagio e di Breda di Piave, in modo che le mole per la sega erano in territorio di San Biagio e l'abitazione in territorio di Breda. Per cui, quando io nacqui l'8 aprile del 1889, fui battezzato nella chiesa di Saletto. Allo stato civile, però, io figurai nato a Breda di Piave. In seguito, la curazia di San Bartolomeo, dipendente da Saletto, venne eretta in parrocchia e il Molino della Sega, che era in territorio della curazia, passò in parrocchia di San Bartolomeo. Del molino, fino al 1886, era proprietaria la famiglia Gava. In quell'anno venne ceduto a Ferdinando Pasin, che era disceso dalle Alpi col gregge per il pascolo in pianura durante il periodo invernale, come era costume dei pastori montani, e il terzo figlio di lui, cioè Mario, mio padre, dopo 2 mesi dalla mia nascita, si trasferì al di là del Piave per condurre un molino di granarie sito sul Negrisia, altro torrente del Piave. Lungo le strade e gli stradoni di accesso sorgeva una borgata di case, parte delle quali ancora esistenti e abitate. Un colmello di tutto rispetto, a suo tempo, che considerava il mulino, oltre che un importante centro di trasformazione agroalimentare, anche un frequentato centro di aggregazione sociale e ricreativa per tutte le stagioni. Il complesso molitorio, nel corso degli anni, fu spesso sottoposto alla furia di piene rovinose, ma la tenacia dei proprietari lo mantenne sempre efficiente ed attivo. Bello. Questo era di Don Buonaparte, di Don Pasin, che è nato proprio lì sì, e, sì. e quindi descrive questo luogo che era veramente un luogo piacevole prima della guerra, un luogo di quelli nostri rivieraschi del Piave. Eh sì, perché avete dei bei posticini lì in riva. Certo, lì sono sì, molto, molto belli. Sì, e anche c'è chi va a prendere il sole nelle spiaggette del sì, Piave. Sì, sì, sì, anche adesso. Anche adesso? Molto di più nel passato. Eh beh sì, adesso vanno al mare. E la cosa interessante ancora qui è che attraverso questa ricerca che abbiamo fatto di questo mulino, noi fino appunto alla ricerca che abbiamo fatto per scrivere questo libro qui, del mulino non esisteva nessuna fotografia, non esisteva niente. Uh-huh. Grazie a questa ricerca siamo riusciti a rinvenire proprio in questo giornale, l'Illustration, abbiamo trovato veramente due o tre belle immagini del mulino. Così oggi noi sappiamo anche com'era, era una bella struttura padronale e molto funzionale, aveva tre roste, quindi era un mulino veramente di tipo di un rispetto, casale di un tempo. Esatto, sì, sì, molto bello, molto bello. Bene, ci fermiamo un momentino, ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è cantata da I Selvaggi e si intitola Parlami sotto le stelle. Sotto le stelle, dimmi le frasi. Ok, eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite al quale cediamo la parola. Ecco, la cosa che viene evidenziata in questo libro è tutta la parte che segue, diciamo, la rotta di Caporetto. Allora, noi ci troviamo di fronte, qui è stato scritto tantissimo sulle responsabilità di Cadorna. Ecco, Cadorna senz'altro ha avuto le sue responsabilità, soprattutto in quelle che sono le battaglie dell'Isonzo, battaglie che non hanno prodotto niente, sì, in niente, anni di guerra, massacri inutili. Però io dovrei dire, forse andando anche in controtendenza rispetto a tante valutazioni che vengono fatte a Cadorna, io lo definirei lo stratega della ritirata. Lui sapeva che doveva assolutamente tutelare, salvaguardare almeno una delle armate. Uh-huh. E tutto, quando si parte con la ritirata, sul tagliamento avvengono delle carneficine, e soprattutto è la seconda armata che poi viene bistrattata, se ne ha dette di tutti i colori sulla seconda armata. In realtà la strategia studiata da Cadorna, secondo me, è una strategia per fare in modo che la terza armata arrivi nel pieno delle sue possibilità, quindi sì, possa essere operativa il più possibile, perché delle strategie austro-ungariche si conosceva una parte di quelle che potevano essere i loro orientamenti di avanzata o meno. Allora si diceva che loro non avrebbero mai oltrepassato il Piave. In realtà il documento che io riporto qui in questo libro, del quale sono venuto a conoscenza per caso, perché in una delle tante visite che fanno gli austriaci, i cechi, che vengono a visitare questo luogo, perché questo luogo era conosciuto proprio più dagli stranieri che da noi, perché lì sono morti i loro soldati, cioè, quindi esatto, loro certo, l'avevano memorizzato questo luogo. Venivano e un giorno si è presentato un signore e mi disse, perché ogni tanto mi chiamavano per illustrare gli eventi, no? C'era questo pullman di austriaci e un signore mi dice: ma lei ha mai sentito la versione della parte austriaca? No, dico, perché dice il comandante del battaglione che c'era qui era un mio nonno. Dico, ma lei le ha lasciato qualche cosa? Sì, dice, c'è qualche pagina di diario, ma dico, a me farebbe piacere averla. E così lui mi ha detto, guardi, io gliela mando, scritta in tedesco, dice, e lei ne faccia l'uso che crede, quindi io l'ho tradotto. In questo documento si capisce che c'era un po' un disaccordo tra quelli che erano gli alti ufficiali dell'esercito austro-ungarico e gli ufficiali, invece i quadri intermedi. I quadri intermedi avevano deciso di sfondare, di arrivare verso Venezia, quelli che avrebbero sfondato nel Medio Piave. Sì, sì. E quindi non era così scontato che gli austriaci volessero fermarsi lungo il Piave. Sì. Ecco, c'era chi sosteneva motivatamente, e questo documento lo comprova, che diceva se è possibile noi cerchiamo di sfondare, di approfittare della debolezza dell'esercito italiano, perché sapevano che ormai l'esercito italiano stava per chiamare, come aveva chiamato in quel giorno lì i famosi ragazzi del 99, di cui dopo leggeremo qualcosa. Sì, sì. E quindi dice, noi li sfonderemo senz'altro. E però noi troviamo questa terza armata che invece il comando viene sistemato a Mogliano, come noi ben sappiamo, e riesce ad avere le forze completamente in grado di reagire a questa avanzata austro-ungarica. Nel pezzo che noi leggiamo adesso, tratto dall'Illustration, questo articolo che tratta degli eventi di quei giorni lì, sempre del 16-17 novembre, ricordo del 17, qui troviamo una riflessione proprio su questo esercito che è più motivato rispetto ai 10-15 giorni prima. Un giornalista francese sui luoghi di guerra. La battaglia sul Piave. Fagaret, 17 novembre. Stamattina, con un tempo meraviglioso, ho lasciato il quartier generale per seguire da vicino le vicende della battaglia sul Piave. La mia automobile ha corso lungo strade dritte, con delle funicelle a segnarne il tracciato, e affiancate ai lati da alti platani dalla chioma fulva. Ho attraversato l'intera ricca pianura veneta, con le sue graziose cittadine e i suoi paesi floridi, le sue ville circondate da parchi con viali alberati coperti di foglie morte, e qua e là specchi d'acqua sorgiva. La regione, coltivata con ammirevole perizia, è un gran mosaico di infiniti campicelli, separati uno dall'altro e delimitati da siepi, filari d'alberi attorno cui si inerpicano i ceppi di vite, dei canaletti o dei rivoletti d'acqua dai cui bordi prende rigoglio quel genere di vegetazione tipicamente lacustre. Tutta la campagna è disseminata di piccole fattorie, le dimore dei proprietari dei campi e delle loro numerose famiglie. Ed ecco la contrada dove da qualche giorno la guerra ha fatto la sua comparsa, demolendo quell'atmosfera di serena e laboriosa felicità. La guerra, con il suo carico di orrori, di rovine e lutti, è là, a due passi, lungo il fiume grigiastro che scivola pigro verso l'Adriatico, formando numerosi meandri e lasciando emergere ad ogni momento, quando l'acqua è bassa, degli isolotti di ghiaia e sabbia. Avevo percorso la stessa strada esattamente 15 giorni fa e ne avevo serbato un ricordo deprimente, una penosa memoria. C'erano ancora la confusione, il disordine della ritirata, la ressa di uomini, carri e camion. I soldati che arrivavano a riorganizzare le retrovie erano tristi e taciturni. Era un momento buio, molto buio. Adesso tutto ha un altro aspetto. Dovunque regna l'ordine e i servizi di supporto funzionano alla perfezione. La crisi è alle spalle. Lungo le strade non incontro più gente con l'aria di chi cerca la propria direzione o di chi si domanda in che razza di posto si trova. I convogli di vettovagliamento passano in fretta, tutti diretti verso il fiume. Lunghe colonne di autoambulanze fanno ritorno dal fronte, cariche di feriti insanguinati. Il cannone tuona, persistente e cadenzato. Il nemico ha tentato in più punti di attraversare il Piave per stabilire delle teste di ponte sulla riva destra, ma è stato respinto. I feriti che tornano dalle retrovie hanno gli occhi brillanti, pieni di luce. Dopo i tragici e tetri giorni della ritirata hanno ripreso coscienza del loro valore, battendosi con ardore. Un distaccamento della cavalleria passa al trotto. Le piccole fiamme blu sventolano allegramente sulla sommità delle lance. I cavalli nitriscono e talvolta si impennano quando l'artiglieria pesante fa fuoco proprio vicino a loro. E gli uomini ridono sotto gli elmi. Hanno appena scortato al campo un migliaio di prigionieri austriaci. Bello. Quindi, Gesualdina, questo è il motivo per cui riescono poi a sostenere e a ricacciare di là l'esercito austro-ungarico. Nasce un qualche cosa di nuovo, nasce una forza. Dettata da che cosa? È dettata senz'altro dal fatto che qui non sono più a difendere terre che non conoscono. Quando erano sulle battaglie dell'Isonzo, per loro era ancora terra lontana. Qui invece ormai si trovano ad avere gli austro-ungarici nelle loro case, nelle loro terre. E quindi ecco questa capacità poi di reagire in questo modo, questo spirito di rivalsa. Quanta gioventù, mamma mia. E purtroppo lì sarà un massacro, dopo vedremo nella parte che leggeremo dopo, ci accorgeremo, è una guerra, è sempre guerra, noi a volte leggiamo con un certo distacco, però qui chi è stato sui luoghi, come in questo caso qui, ne abbiamo questa fortuna di avere un giornalista che osserva, che fotografa e scrive, e lì ci rendiamo conto di che cosa è la guerra. La storia è sempre storia, cioè a me interessa molto anche la prima guerra mondiale, ho letto tanto della prima guerra mondiale, anche della seconda, ma la prima guerra mondiale è stata forse la prima guerra, nell'Ottocento c'erano le guerre di indipendenza, ma insomma erano guerrette, insomma. Certo. Ecco. Bene, ci ascoltiamo la terza canzone. Allora, adesso abbiamo Lea Massari che ci canta La ballata del tempo. Giorni e giorni, notti e notti, è quel che fu. Sogni un tempo, gioco e amore, ritornerà. Vince, perde, il rosso, il nero, il meno, il più. Nella storia tutto è gloria, passa e va, gioca sul tre, vincerà l'amore, perdi. Eccoci di nuovo in studio. Allora, abbiamo ancora il nostro ospite che ci racconterà altre cose interessantissime. Ecco, riprendiamo quindi questo discorso che facevamo prima su questo esercito, per fortuna, dicevamo, la terza armata è arretrata con le piene capacità operative. C'è da dire anche che in quel periodo lì vengono mandati in questa zona i ragazzi del 99, tant'è vero che ci sarà poi un encomio da parte del capo di Stato Maggiore a questi ragazzi, l'encomio che si riferisce proprio a questi soldati giovanissimi, viene citato proprio anche la località Molino della Sega, questo per dire che questo evento, che era stato andato un po' in dimenticatoio, è stato ritenuto valido e importante anche dal capo di Stato Maggiore. E questi ragazzi, pensate, hanno dovuto trovarsi al fronte con una preparazione di una decina di giorni, cioè, poco più, praticamente la ritirata è stata molto molto veloce, sono stati fatti saltare i ponti, uno schianto, quindi questi ragazzi del 99 in realtà erano proprio ragazzini, mandati un po' lo sbaraglio, ed è su questo anche che puntavano gli austro-ungarici, no? Sull'impreparazione di questi ragazzi, per cui l'ipotesi che loro facevano era quella di sfondare tra Zensón e Molino della Sega, per cui Zensón, la famosa ansa, perché anche lì sono riusciti, sì, proprio, esatto, negli stessi giorni sono riusciti a oltrepassare il Piave e arrivare sulla riva destra, e poi a Zensón avrebbero aggirato le nostre truppe naturalmente andando verso sud, e quelli che invece passavano da noi si sarebbero avrebbero fatto un'altra testa di ponte e avrebbero in parte raggiunto Zensón, una parte sarebbe avanzata verso Treviso, una parte sarebbe andata verso nord. Questi erano un po' gli obiettivi che si ricavano almeno da questi documenti di parte austro-ungarica. E qui sulla riva nostra c'è come primo assalto, viene difesa la riva dalla brigata Novara, e poi arriveranno i bersaglieri con il loro comandante Francesco Rolando, di cui poi leggeremo, sì, qualche cosa, perché medaglia d'oro proprio consegnata lì sul campo ai suoi soldati, perché lui purtroppo muore in questa occasione. E dicevo che lì l'esercito riesce sì a penetrare, riesce ad arrivare in un isolotto e poi arrivare a Saletto, quindi le case di Saletto, San Bartolomeo, in una giornata almeno si è trovata con questi soldati austro-ungarici. Mamma mia. Qui poi ci sono alcune notizie legate un po' alla tradizione. Si dice che poi siano stati mandati di là perché, arrivati sulle nostre rive, siano andati nelle cantine delle nostre famiglie, che cantine molto ben fornite, con vino buono, che insomma abbiano perso un po' di controllo della situazione. Ecco, questo diciamo la diamo come notizia che fa parte della tradizione. Certo è invece che è arrivata poi questa parte dei ragazzi del 99 e questa brigata comandata da Francesco Rolando, che riesce a fare diversi prigionieri. Vengono trattenuti di qua, questo infervora un po' i nostri soldati, e il 17, dopo una battaglia veramente furibonda, le truppe austro-ungariche vengono ricacciate sull'altro ponte, quindi viene ricostituito il fronte unito sulla riva destra del Piave. Stessa cosa succederà, ad onore della cronaca, anche il giorno dopo nell'ansa di Zensón, dove era stata fatta un'altra testa di ponte. Però rimangono gli orrori, rimane quello che significa battaglia, una battaglia molto cruenta, di cui adesso sentiamo qualche cosa, sempre dalle osservazioni di questo giornalista Vaucher, nell'illustrazione. Sulla riva destra del Piave, A capo della 54esima divisione italiana, che è appena uscita vittoriosa dalla battaglia per la difesa della linea del Piave, così duramente contesa col nemico, vi trovo un giovane generale che, con gli occhi colmi di gioia, mi racconta della sua soddisfazione per il modo in cui le sue truppe si sono battute. Ora potete benissimo andare a visitare il campo di battaglia, dove stamattina il nemico è stato definitivamente sconfitto, aggiunse, indicandomi sulla carta la strada da seguire. In fretta corsi dove mi era stato indicato, e ancora campi, circondati da alberi, coltivati o coperti da un'erba grigiastra che formano una gigantesca scacchiera, e tutto un tratto inchiodata al tronco di una betulla argentata una tavoletta che indica Fagarè. Con l'auto seguo la direzione della freccia. Il cannone tuona sempre più forte, i colpi si susseguono con brusco rumore, qua e là i crateri delle bombe fiancheggiano la strada. Dei bambini di 6 o 7 anni corrono intorno e saltano dentro le buche, sorridenti, mentre lì vicino i fratellini di 10 o 13 anni giocano a fare i soldati. Gli abitanti del paesino per lo più non hanno voluto abbandonare la loro terra, sono ottimisti e preferiscono rischiare di essere bombardati piuttosto che partire per l'ignoto e lasciare la loro fattoria. Ed eccoci sul teatro dello scontro. Tra gli alberi, in mezzo ai campi di mais, dei cavalli morti stesi a terra in tutte le posizioni, lungo la strada che porta al ponte sul Piave e che corre su di un terrapieno di 5-6 metri più alto rispetto ai campi circostanti, uniformi militari sparse, lacerate, dilaniate, macchiate di sangue. Al bivio sulla strada per San Bartolomeo, un rifugio di fortuna coperto di cartucce vuote e elmi austriaci. Giù dal terrapieno dei cadaveri, quelli dei soldati che presidiavano una mitragliatrice che diede filo da torcere per molto tempo gli italiani, impedendo loro di avanzare. I cadaveri sono rotolati giù, finendo impigliati nei cespugli che circondano un vigneto. Si intuisce come su questo difficile terreno ingarbugliato tra alberi e colture la battaglia sia stata dura e intensa. Ecco il mulino della sega, l'ultimo rifugio degli austriaci, che qui avevano posizionato numerose mitragliatrici, resistendo e tenendo la posizione con furore. Stamattina qui c'era l'inferno. Questa sera, mentre il sole si corica laggiù, dietro una tenda di fronde, inondando il cielo di una dolcissima luce rosata, il piccolo ruscello scorre in tutta pace e serenità. L'acqua quasi gorgheggia, come se non fosse stata mescolata al sangue. Il mulino risuona delle canzoni intonate dai soldati e dei gemiti dei feriti. L'edificio è pressoché intatto, soltanto la facciata è crivellata dai proiettili delle mitragliatrici e il tetto è trafitto da un grosso colpo di artiglieria. Sul retro del mulino, sulla sabbiosa riva del fiume, alcuni bersaglieri sono occupati a pulire le trincee. Alcuni feriti austriaci, rimasti tutto il giorno tra i cespugli per nascondersi, sono appena stati scoperti e vengono trasportati al posto di soccorso. Una piccola barca porta su un isolotto, coperto di cadaveri, un cappellano per confessare un soldato in procinto di morire e dei barellieri per riportare a riva altri feriti. Il Piave scorre placido e lento, trascinando con sé numerosi corpi che galleggiano sul pelo dell'acqua e che talvolta restano impigliati a quei rami d'alberi che si tuffano nell'acqua grigia. Sulla riva occupata dagli italiani, alcuni soldati, in piedi davanti alla piccola trincea scavata nella sabbia, raccolgono tutto il materiale abbandonato dal nemico. I camion, carichi di fucili, mitragliatrici e casse di munizioni sottratte agli austriaci, prendono la strada di Cavrie, dove ancora stamattina il 92esimo reggimento imperiale resisteva strenuamente. Scende la sera. Niente più si riesce a distinguere sugli isolotti se non quei punti scuri, i cadaveri che si stagliano sul tappeto grigio di sabbia. I grossi colpi di artiglieria degli italiani ci passano sopra la testa sibilando per andare poi a schiantarsi scoppiando sulla riva opposta e sollevando lingue di terra e pietre che, ricadendo nel fiume, alzano colonne d'acqua schiumante. Dei carri che trasportano cadaveri si dirigono con al seguito due cappellani verso il piccolo cimitero, ancora colorato dai fiori del 2 novembre, che circonda la chiesa e di uno dei paesini rivieraschi del Piave. Il mesto corteo arriva presto nei pressi di un grande prato dove i bersaglieri che hanno combattuto la scorsa notte sono giunti a radunarsi prima di ripartire questa notte per andare a rinforzo delle prime linee. Un ufficiale indirizza qualche parola ai suoi uomini che quasi con naturale spontaneità, levati gli elmetti, li agitano in aria e all'unisono come fossero una sola voce, gridano «Viva l'Italia!». Poi, con passo marziale, le colonne si dispongono al loro posto di combattimento, mentre i carri si fermano dietro la chiesa per depositarvi a terra i corpi di quelli che morirono onorosamente in battaglia. La notte è calata completamente, una notte cupa, buia, ma stellata. Il cannone tuona dal lato italiano, sulla riva nemica. Nessuna risposta. C'era d'amore un patriottismo molto, molto sviluppato allora. Sì, Gesù, si sviluppa proprio quando i soldati arrivano su queste terre e loro si accorgono che arrivano sulle nostre, alle nostre case. Cioè. Questa pagina qui, la prima volta che l'ho letta in francese, io veramente mi sono commosso. Anch'io mi sono commosso. La descrizione, nonostante l'orrore, è una cosa molto alata. C'è anche della poesia. Sì, sì, infatti c'è poesia. Io ho detto, questa qua non possiamo assolutamente. È una cosa bellissima, una bella pagina, molto commovente e anche poetica, diciamo. Certo, è poetica, la tragicità c'è, però voglio dire che queste pagine secondo me devono essere, per fortuna, perché a volte queste cose qui si scoprono diciamo per caso. Io ho sempre una mia idea che ogni tanto la storia ci riserva delle sorprese sta a noi riuscire ad accoglierle e a valorizzarle, proprio saper tutto. E qui restituisce proprio l'umanità di questi poveracci, questa dimensione che supera ogni dimensione singola, individuale, e anche nello stesso tempo c'è questa descrizione della calma del fiume, dell'ambiente circostante, drammaticità. Sì, sì. È un bellissimo pezzo. Allora, se sapevo, ti dicevo di mandarmi un pezzo anche a me, ma non, casomai, non mi sono ricordato. Ecco. No, prossimo. Vedremo. Sì. Sì. Allora, hai altri? No, andiamo con una canzone o hai qualcosa ancora da raccontare? Ma da raccontare, cioè, il brano, così dico già quello che dopo leggeremo. In queste battaglie, in questi eventi tragici, ecco, ci sono delle figure, quelle che sono le medaglie d'oro, che a volte, soprattutto nel nostro modo di vedere e di sentire, sembra quasi che siano delle persone fuori con la testa, delle persone. Invece no, a volte sono delle persone che hanno grande carica di umanità, e soprattutto che comprendono il dramma che stanno vivendo i suoi soldati. Ed è proprio loro si accorgono di doversi esporre per fare in modo che i soldati capiscano che devono intervenire. Se non vedono il loro comandante che interviene, che parte per primo l'esempio, qui dovremmo fare grandi discorsi con i nostri politici di oggi. Però toccheremo un tasto che è meglio evitare. Sì. L'esempio, giustamente. L'esempio, la dignità, lo spirito di sacrificio, tutte queste cose, chiaramente. Certo che anche la Prima Guerra Mondiale è stata lunga e anche... Lunga e veramente è stata drammatica per le condizioni meteorologiche e soprattutto anche perché c'erano i mezzi che erano veramente di distruzione, di massa, esattamente. Usavano... Ma so che è stata bombardata anche Treviso nella Prima Guerra Mondiale. Sì, anche Treviso, subito. Cioè, veramente, dicevo, è la prima guerra fatta con mezzi abbastanza tecnologici abbastanza avanzati per quel periodo lì. Sì, sì, comunque, sì, per carità, ma così ripercorrerla conserva un certo... Oltre che interesse, un certo fascino, sta gente, questa povera gente anche che... proprio che si dava anima e corpo, perché adesso non so. I letterati senza che andavano sicuri da spirito. E poi è la prima volta in cui ci sono soldati che arrivano da tutte le parti d'Italia, perché qui sono morti ragazzi che arrivavano dalla Sicilia, dalla Calabria, da tutte le parti d'Italia. Esatto. Comunque adesso ci ascoltiamo un'altra canzone ed è intitolata Scrivimi, è cantata da Nino Buonocore. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi, gli altri sono andati al cinema, vuoi restare sola, poca voglia di parlare, allora scrivimi. Servirà sentirti meno fragile quando nella gente troverai solamente indifferenza. Tu non ti dimenticare mai di me. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto. Ci vuole poco per sentirsi più vicini. Scrivimi quando il cielo sembrerà più limpido, le giornate ormai si allungano, ma tu non aspetta la sera. Se hai voglia di cantare, scrivimi. Anche quando penserai che ti sei innamorata. Ed eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite per un'altra tranche di questo affascinante racconto. Ecco, io vorrei dare un'altra immagine molto bella che ci viene data, che apre un altro capitolo, la storia di questi nostri parroci nelle nostre campagne e nelle zone del fronte. Loro sono sempre stati rimasti con la popolazione fino all'ultimo momento, fino a quando non arrivava qualche carabiniere che diceva: qui la situazione è troppo tragica e pericolosa, quindi lei, anche con la forza, molto spesso li allontanavano. Sono state delle figure secondo me eccezionali. Sappiamo che le canoniche sono state occupate dai nostri soldati, dall'altra parte invece, subito la riva sinistra, in linea d'aria a qualche centinaio di metri, erano occupate dagli austro-ungarici, e i nostri parroci molto spesso hanno condiviso, che so, in una stanzetta, questa tragica realtà, chi da una parte e chi dall'altra. Questo è un brano secondo me interessante, perché mette assieme due figure, un parroco di Cavrie, dove erano attestati i bersaglieri di Francesco Rolando, medaglia d'oro come dicevo prima, che da quella canonica sarebbero partiti e in quella battaglia, da quella battaglia non sarebbe più tornato nessuno. Ecco, quindi sentiamo questa pagina. Don Nena tornò in canonica il 12 novembre sera e il 14 per prelevare alcune cose che gli stavano a cuore. Vidi allora asportate le bottiglie, scrive Don Nena nel suo diario, manomessa ogni cosa, aperta la cantina. Feci reclamo presso il capitano, feci allora quasi indispettito per prendere le bottiglie riservate per la celebrazione della Santa Messa, ma nel caricarle mi fu imposto di lasciarle sotto pena di arresto, anzi mi fu imposto di partire dalla canonica, altrimenti mi avrebbero requisito carro e buoi, e che più non fossi tornato se non con permesso di un generale. Ma mentre il sacerdote si spostava da Melma a Quinto, a Treviso, a Roncade, nelle sedi dei vari comandi, per protestare ed essere esaudito su quelli che riteneva imperdonabili saccheggi della sua abitazione, la situazione sul fronte della guerra, a pochi passi da lì, stava diventando drammatica. Il Piave era pericolosissimo, i suoi argini erano sconvolti da scontri, tiri d'artiglieria, esplosioni. Proprio il 16 novembre gli austriaci avevano ripreso ad attaccare massicciamente in direzione San Bartolomeo Fagarè. Il comando della 54esima divisione, che aveva sede a Villa Navagero e Rizzo a Rovarè, rispose l'utilizzo anche dei bersaglieri dislocati a Cavrie, nella canonica di Don Nena, e da questi aggiunse un battaglione della brigata Novara, dislocato tra Fagarè e Bocca Callalta. Da Treviso arrivarono altre truppe con il compito di fermare il nemico che dal mulino della sega avrebbe potuto dilagare nella campagna. La lotta fu terribile e provocò numerosissimi morti. quando nel pomeriggio del 16 novembre veniva segnalato l'avvenuto passaggio del fiume da parte del nemico, il capitano Rolando, col suo battaglione, fu tra i primi ad accorrere nella zona del Molino della Sega, occupato dai soldati austro-ungarici. Una scarica violenta di mitragliatrici accolse l'arrivo dei nostri soldati. Rolando, rifiutando la compagnia anche del suo aiutante maggiore, si spinse in avanti per conoscere l'entità dei reparti austriaci. Un'improvvisa pallottola gli trapassò il braccio destro da parte a parte. Trasportato, contro la sua volontà, al posto di medicazione, continuò a dare istruzioni per il combattimento e, una volta medicato, non esitò a tornare alla testa del suo battaglione, che era tuttora inchiodato sulle posizioni per strenua difesa dell'avversario. In tutta l'area si scatenarono sanguinose e ripetute battaglie per ricacciare gli occupanti sull'altra sponda e i suoi bersaglieri si spesero con grande coraggio, assieme al loro comandante che non si tirò indietro fino alla fine. Di fronte a una situazione che sembrava ristagnare, incitati i suoi uomini con nobili e accalorate parole, si lanciava in avanti, sicuro di essere seguito. E infatti tutto il battaglione compatto lo seguì, con impeto e senza la minima esitazione, in un irruento attacco che travolse il nemico e che spianò la strada anche alle altre truppe. Ma il capitano non ebbe la fortuna di poter gioire della vittoria. Durante il combattimento che infuriava, a poche centinaia di metri dal Molino della Sega, il capitano fu colpito in fronte da una pallottola di mitragliatrice e cadde sul campo. Il suo esempio non poteva non servire da sprone agli altri soldati e di lì a poche ore il mulino sarebbe stato ripreso e la sponda destra sarebbe ritornata nuovamente sotto il controllo dei reparti italiani. Furono ben pochi i protagonisti della battaglia che tornarono al comando del reggimento e poterono raccontare la leggendaria impresa. Due giorni dopo, il 18 novembre, anche Don Nena venne a sapere che quasi tutti i soldati insediati nella canonica di Cavrie e l'ufficiale Rolando erano caduti nei terribili scontri del Molino della Sega. Col permesso del colonnello della divisione fui a Cavrie, appresi dello scontro dei nostri all'azione della Sega, ove era rimasto sul campo il capitano Rolando, tutti gli ufficiali della mensa che erano in canonica e meno 35 soldati di quelli che erano inquartierati sulla chiesa nel granaio della canonica, tutti rimasero morti. Neppure la drammatica fine di quei poveri soldati e del loro capitano, che certamente avevano approfittato di qualche botte e forse di qualche altra cosa prelevata dalla dispensa della canonica, ma che non avevano esitato a sacrificare la propria vita per la patria, era riuscita a dirottare gli occhi del caparbio sacerdote dalle giuste rivendicazioni riguardanti la sua canonica ai drammatici eventi che avevano decimato i reparti che attorno alla canonica e alla chiesa avevano posto il loro accampamento. Mi incontrai con il maggiore, che fu posto a sostituire il capitano Rolando per riorganizzare il reggimento, che voleva che asportassi tutto quanto era in canonica. Stigmatizzò il vandalismo fatto dai soldati al mio archivio parrocchiale. Fin dal 14 novembre avevo consegnato le chiavi della chiesa al capitano Rolando, che me le chiese per il bisogno del suo cappellano. Invece fece subito della chiesa dormitorio per i soldati. E Rolando, in quelle piovose serate invernali, bene aveva fatto ad alloggiare i suoi ragazzi in un luogo decoroso, anche se di norma destinato al culto, una permanenza breve per loro, che di lì a qualche giorno avrebbero sacrificato la loro vita alla patria. La chiesa, per i cristiani, è il luogo per eccellenza del sacrificio e dunque le sue porte non potevano rimanere chiuse in un momento tanto tragico per le migliaia di soldati che vivevano come d'autunno le foglie sui rami. Che bello. Ecco, questi, Gesualdino, sono i risvolti di questa guerra. La guerra è quello che succede sul campo di battaglia, è quello che succede nelle famiglie, quello che succedeva. Ma allora io ritengo veramente che c'era un patriottismo veramente grande, perché insomma un capitano che proprio si butta a corpo morto per salvare, certo, insomma, un po' come un appendice del Risorgimento, sì, diciamo, sì, quando sì, che sì, so, sì, Michelangelo Novaro, sì, e altri, sì, ventenni, sì, si sono, certo, sacrificati, certo, volontariamente e senza infingimenti per la patria. Ed è chiaro che questi soldati, come qui noi riusciamo a vedere, questi soldati quando arrivavano in in queste canoniche, poi pioveva, come in questo caso che viene descritto nell'archivio, io queste notizie le ho tratte dall'archivio parrocchiale, si sono riparati in chiesa e insomma hanno dormito, e si trattava di esercito, di gente che poi il giorno dopo partiva, i loro comandanti sapevano che molti di quelli più, non sarebbero più ritornati. Appunto, è bellissimo. E c'è una nota di speranza però, secondo me, e a me piacerebbe proprio che fosse una riflessione anche finale che c'è in questo libro, che di fronte anche a questa drammaticità c'era sempre quell'umanità all'interno. Dall'una io sono convinto anche dall'altra parte. Gli uomini sono uomini, appunto, e lì erano giovani ragazzi, dall'una e anche dall'altra parte i sentimenti sono quelli. E mi piacerebbe proprio che fosse letta questa parte qui, che secondo me è molto significativa. I ragazzi del 99. Poretti. Solo il giorno prima un gruppo di giovani truppe, reclute della classe 1899, era arrivato alla 54esima divisione per essere incorporato nel reggimento. Questi giovani coscritti, che non avevano mai visto il fuoco delle armi, si batterono come dei vecchi veterani delle guerre napoleoniche. Stasera, parlando con loro, li trovi raggianti e lucidi, così tranquilli in mezzo alle granate come i veterani del Carso. Il coraggio non li ha induriti, né li ha resi insensibili. Ne incontrai uno sul sentiero verso il fiume, mentre portava sulle spalle un gran diavolo di austriaco ferito, alto il doppio di lui, con una folta barba e una testa da vecchio mercenario. Giunto al posto di soccorso, questo soldatino di 18 anni, che non aveva l'ombra di un baffo, posò a terra il suo carico sanguinante, poi lo guardò dicendo in italiano: «Povero Cristo, come l'ho ridotto!» Gli chiesi spiegazioni. Allora mi disse con un buon accento veneto: «Ero in pattuglia quando vidi di tutto un tratto, dietro un cespuglio, questo austriaco che prendeva la mira verso di me. Avevo una granata in tasca, la lanciai e mi abbassai rapidamente per evitare il proiettile che mi sibilò sopra la testa. La mia bomba a mano lo ha ferito gravemente, allora sono andato a prelevarlo e l'ho portato qui perché si possa curarlo.» Bravo, piccolo bersagliere. Ecco questa umanità, questa che umanità troviamo anche nella guerra. E purtroppo quella guerra avrebbe dovuto insegnare noi, quando adesso il rivivere questo centenario dovrebbe essere uno stimolo per sconvolgere. Certo. E purtroppo non è servita, perché poi c'è stata la seconda guerra mondiale. Ma noi riteniamo che oggi almeno ci troviamo in Europa che, con tutte le difficoltà, però almeno stia camminando, si sforzi di camminare su sentieri di pace. Ecco, questa umanità, secondo me, che emerge, che non è mai mancata neanche in tra avversari, esatto, come in questo caso, reazioni cruente, se ne trovano tanti di questi fatti qui nella soprattutto nella prima guerra mondiale, dove il fronte era molto spesso a poche decine di metri di distanza. Forse dei tuoi nonni, bisnonni, non c'è stato nessuno che ti ha raccontato qualcosa di questo? Io ho avuto un nonno che era proprio sulla linea, sul fronte del Tagliamento prima, e poi è arrivato sulla linea del Piave, e lui mi raccontava sempre, e quindi io dopo a maggior ragione ho capito qual è stato il motivo di questa reazione. Cioè, loro si sono sentiti le case invase, sapevano che quelle erano le loro case, dovevano difendere le loro case, la loro terra, i loro figli, insomma. Quindi è stata, secondo me, la molla fondamentale, e questa naturalmente è servita anche per gli altri che arrivavano da altre regioni, esatto, che non conoscevano più di tanto le nostre terre, però sono stati certamente di stimolo per gli altri soldati. Perché so che gli anziani, appunto, raccontavano tanto volentieri di queste cose qua. Mi ricordo mia suocera che mi raccontava della Seconda Guerra Mondiale, ma me lo raccontava con un'enfasi. Perché era un periodo particolare che avrebbe dovuto giustamente insegnare. Esatto. Non ci sta più. Noi ci fermiamo per una canzone e poi concludiamo. E dopo concludiamo. Bellissima quella conclusione. Con 18 anni, veramente Sì, ma penso che questo sia uno spirito, se un... il vero spirito. Ecco, appunto. Sì, sì. Allora ti ascolteremo, Franco Sandro Giacobbe, in Sarà la nostalgia. Già scompiglia il mare, ma sto naufragando anch'io, non so dimenticare chi non m'ama più. Le regole del gioco tu le rispettate poco, e di notte io non mi addormento e sto come un bambino qui a immaginarmi ancora quando c'eri. Eccoci di nuovo. Vabbè, ormai siamo arrivati alla fine della nostra... Eh sì, proprio un pochi secondi, diciamo, per trarre delle conclusioni, se se ne possono trarre. Insomma, abbiamo fatto un bel discorso. La parola. E il nostro ospite scrive dei libri stupendi, veramente... Alfonso, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Adesso la prossima volta ce ne presenterai un altro. Senz'altro, quando voi mi chiamate io verrò. Tu verrai. Verrò. Va bene. Benissimo, qui certo. Naturalmente ci sarebbero un sacco di cose da dire sulla guerra, sulla follia, eccetera. Però vediamo che l'umanità prende sempre sopravvento. E forse questa è la lezione da sottolineare, sì. Questa è la cosa. Questa, sì. Comunque da sperare che non ne vengano altre. Certo. E con questa considerazione diciamo che possiamo... Concludere tutto ringraziando nuovamente Alfonso per questa splendida incontro e ai nostri ascoltatori, addio piacendo. Ci sentiremo domenica. E buonasera a tutti. Col mio solito. Ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.